Buonasera, benvenuti e benvenute. Questa sera la Biblioteca Claudia Augusta, che ha sede in questo palazzo, come ben sapete, propone la presentazione del libro Bieci, la pronuncia non l'ho capita bene, ma ci aiuterà l'autore. L'autore è appunto Philipp Bonhoeffer, che ha raccontato la vita, l'infanzia, soprattutto di Philipp Jarat Moroto, un'infanzia avvenuta appunto nel nord del Kenya. Il libro è edito dalla FOG, è ormai una collaborazione pluriennale quella con questo editore, un editore che si pregia di proporre libri in più lingue, e in questo caso appunto oltretutto trilingue, di solito sono due le lingue, in questo caso trilingue, e ovviamente è una missione, un loro segno distintivo che noi apprezziamo molto, ovviamente, come Biblioteca Claudia Augusta e anche insomma come provincia autonoma di Bolzano. Perfetto, vorrei anche parlarvi un po' delle prossime iniziative. Come biblioteca presentiamo domani I viaggi del giramondo Pietro Marangoni, il titolo del suo libro è Destinazione Meraviglia. Passiamo alla settimana prossima, avremo altri due appuntamenti, solo un appuntamento la prossima settimana, il 25 febbraio avremo la presentazione del libro Loner, un ponte fra due culture. Arnaldo Loner non ha bisogno di presentazioni, avvocato, bibliofilo, insomma parleremo di lui nella serata del 25 febbraio, sempre qui in biblioteca. E per terminare, l'ultima cosa che vi propongo in questa serata è per il 10 marzo la presentazione di Nulla Materno di Cristine Vescoli, un romanzo sul rapporto d'amore tra madre e figlia. Bene, questi sono i prossimi appuntamenti, però ovviamente rimaniamo a questa serata e passo subito la parola all'autore di cui ho appena parlato, Philipp Bonhoeffer, che vedete qui al mio fianco, e poi a Ferruccio Delle Cave, che lo accompagnerà in questa serata. Beh, sono molto contento, vi saluto cordialmente a questa serata eccezionale. Eccezionale perché abbiamo qui un libro con il titolo che adesso ho sentito esclamare in un modo forse corretto, Biege. Più o meno. Più o meno. è il primo titolo del Verlag Ohne Geld, di Fock, in fase trilingue, vale dire in tedesco, che è la lingua madre, o la seconda lingua madre, del curatore di questo libro, di Philipp Bonhoeffer, in italiano e anche in inglese. Per dire poi che l'inglese, per quello che mi ha raccontato Philipp Bonhoeffer, è stata la prima lingua a entrare in questo racconto, perché il racconto che viene curato è qui pubblicato da Philipp Bonhoeffer, che in questo suo compito non è del tutto giusto parlare di autore, se ho capito bene, ma è il curatore, vale a dire ha trovato questo ragazzo in uno dei suoi viaggi in Africa orientale, nella zona a nord del Kenya, sul confine verso l'Etiopia, a Illeret. E poi vi spiego brevemente solo come Philipp Bonhoeffer va a trovare queste realtà anche insite nel suo cammino professionale. Ed è la storia di Philipp Jarat Moroto che lui stesso ha raccontato al nostro curatore. Philipp Bonhoeffer, devo presentarlo perché tutti quando sentono il nome Bonhoeffer pensano al suo zio celeberrimo, che era il teologo e filosofo Dietrich Bonhoeffer, per cui abbiamo un po' lo stampo della famiglia, e Dietrich Bonhoeffer che è entrato nella storia come uno dei capi della resistenza alla Germania nazista. Però Philipp Bonhoeffer, molto più giovane, ha studiato medicina a Milano e si è specializzato a Pavia in cardiologia, e la ricerca cardiologica è uno dei cheval de bataille di Philipp Bonhoeffer, uno dei cardini della sua vita professionale, ma sono più vite professionali. Prima entriamo un po' in questo settore, non è stato solamente medico, ma anche ricercatore, uno dei più grandi e più importanti ricercatori al mondo per quello che riguarda le valvole cardiache, il tema delle valvole cardiache, poi può entrare forse lui stesso in un discorso più scientifico di quello che possa fare io. Comunque poi ha lavorato a Parigi come cardiologo e si è trasferito a Londra, dove ha iniziato questa ricerca su nuove tipologie di impianti di valvole cardiache, se ho detto la cosa giusta. E con questa evoluzione scientifica ha contribuito a salvare moltissime vite, fortunatamente anche specializzandosi nelle cure per i giovani che erano ammalati di malattie cardiache. Così ha anche fatto i suoi viaggi in Africa e anche in Africa orientale, dove ha conosciuto il fratello maggiore di Philippe Yarat Moroto di Bijie in un villaggio, e poi voi leggerete tutta la storia di quello che accade e non accade a questo ragazzo. Però non voglio chiudere la mia presentazione dicendo che una delle vite professionali di Philippe Ponneuf, soprattutto al momento, è quella del violinista e del violista, vale dire già da bambino lui suona il violino ma anche la viola, e potete trovare un bellissimo concerto in camera con un trio di Mozart con Philippe Ponneuf al violino in internet, ed è anche co-organizzatore o co-fondatore o anche fondatore, questo non ho capito bene, del Festival di Musica Monte Castelli Pisano, che è un festival bellissimo, festival di musica soprattutto da camera, e dove al momento vive anche il professor Bonhoeffer. Ma non è rimasta solo questa sua sensibilità alla musica come violinista, come artista che suona, è andato oltre, la sua indole scientifica non l'ha lasciato in pace e ha iniziato a costruire dei violini ed è entrato un po' in quello che è la tradizione della liuteria, che noi in Italia dobbiamo tenere molto alta, pensando a Cremona, ad altri centri del liuto e della musica barocca, ma soprattutto anche dei violini. E anche su di questo poi, alla fine della lettura, forse torneremo a parlare un momento di musica. Ecco, io ho cercato in pochissime parole di presentare questo personaggio di spicco internazionale che oggi è ospite da noi, lo ringrazio vivamente di questo e ringrazio anche di aver potuto conoscerlo tramite la famiglia Zucker e Helmut Zucker, l'editore che ha impaginato e pubblicato questo libro. Allora io le chiederei gentilmente di raccontarci com'è nato questo racconto, com'è nato anche questo libro in sé e come ha un po', quali sono state un po' le tappe più interessanti di questo ragazzo, di Philippe Yarat Moroto. Grazie mille. Allora, un'introduzione ovviamente troppo generosa. Mi fa molto piacere essere di fronte a voi. So che anche qui ci sono tante persone che hanno scritto libri, conoscono la letteratura. E io ho fatto diverse cose nella mia vita, ma la cosa che non ho mai fatto era di scrivere un libro, né una lettura di fronte a persone, e sono sicuramente scarsissimo a farla. Ma vi racconto volentieri questa storia di un ragazzo. Io, solo anch'io una piccola premessa, ho lavorato in Africa e ho cercato di sviluppare diverse tecniche cardiologiche, soprattutto in Africa dell'Est, ma anche in tanti altri paesi africani. E sono stato una delle persone che hanno cominciato a fare la cardiologia nell'Africa dell'Est. Eravamo veramente in pochissimi all'inizio. E pian pianino mi sono sempre più interessato per l'Africa e per le tradizioni africane. e ho cercato di arrivare nell'Africa meno in contatto con noi, cioè questo è stato il mio interesse per moltissimi anni, e noleggiavo delle macchine per farmi portare il più lontano possibile, però queste macchine erano sempre con autista, perché non si poteva prendere una macchina e noleggiarla così e poi andare, perché c'era il rischio di poi fermarsi da qualche parte, di avere la macchina in un posto irrecuperabile e così via. E così non sono rimasto veramente soddisfatto, e un bel giorno ho deciso di comprarmi una macchina per poi arrivare oltre questi confini dove i turisti potevano arrivare. E appena, cioè dopo qualche mese, quando avevo questa macchina, avevo la fortuna di conoscere un giovane studente iscritto a scienze politiche che era arrivato in Kenya, cioè scusate, a Nairobi in Kenya, per le strade più strane, cioè una storia stranissima, e lui arrivava proprio da quel posto che mi aveva incuriosito. E allora gli ho chiesto se potevo portarlo una volta a casa, ho chiesto se questo era possibile. Per lui arrivare a casa voleva dire aspettare un camion che passasse su questa più o meno strada che c'era, che ce n'era un camion forse una volta al mese, e poi si mettevano in modo scomodissimo su questi camion, speravano di arrivare, e poi gli ultimi 60 chilometri li doveva fare a piedi, cioè aveva un tragitto di camion di uno o due giorni, poi doveva fare questo tragitto, cioè gli ultimi 60 chilometri a piedi. E io avevo voglia di portarlo a casa, e ho fatto questo, sono arrivato nella loro famiglia, e poi da lì volevo andare nell'Etiopia del Sud. Bisogna immaginarsi un posto dove strade praticamente non c'erano, non c'era ancora il concetto del soldo, per esempio, tante cose che veramente non c'erano, e bisognava attraversare una frontiera che non c'era, cioè semplicemente si passava dal Kenya in Etiopia e così via. E così ho avuto questa fortuna di arrivare nell'Africa più profonda, più vera, e quando sono passato con questo ragazzo, cioè questo studente, Lokwapeta, è un po' cominciata questa storia, che poi Lokwapeta c'entra poco, ma comincio un po' a leggervi un attimo questa storia, che è del suo fratello Philip Yarat Moroto, che vedete qua, che è giovane, nato nel 2007. Allora vi leggo, è la prima volta che leggo in pubblico, scusatemi se lo faccio male, lo so già. Mi chiamo Philip Yarat Moroto e sono nato il 4-4 del 2007, almeno così c'è scritto nei miei documenti. Sono dovuto andare a prenderli di là perché non mi ricordo mai quella data. So soltanto che ero già vivo a quel tempo, perché c'è una foto di me in braccio a mia madre scattata nel dicembre 2006. Nel senso che il 2007 non è affatto vero, cioè questa foto è antenatale, se vogliamo, questa foto è presa dalla persona da cui ho preso il nome, si chiama Philip Yarat Moroto. Lui si chiama Philip e lo conosco ancora oggi. Quando ha scattato la foto stava viaggiando con mio fratello maggiore verso casa nostra e poi verso l'Etiopia. Sono l'undicesimo figlio di mia madre. Papà ha avuto figli anche dalla seconda e dalla terza moglie. Quando sono nato eravamo già in 20 in famiglia. Oggi siamo anche di più, e qui scrivo i nomi di tutti i miei fratelli, è molto difficile metterli tutti nell'ordine d'età giusta. Con mamma siamo quasi solo maschi. Lokwapeta, quello che dicevo, Loluk una ragazza, Archier Niekero, Ayuni una ragazza, poi Lokeke, Rendelle, Agiko, Laur Nyaila e poi io, Philip Yarat. Con la seconda mamma ci sono 5 maschi e 4 femmine, Hermir una ragazza, Ezekiel, Habara, dopo viene Lokori, Biri, Giada, Bada una ragazza, Aidoro una ragazza, Guormare e poi Colle, sempre una ragazza. La terza mamma ha 7 femmine e solo 2 maschi, Tuya Shworo Oita un maschio, Kare Maria, poi Narutiai Tergic, Colle e l'ultimo maschio che si chiama Ruto, proprio come presidente del Kenya. In realtà, Papà ha anche altri figli, ma con donne che non ha sposato. Ne conosco solo due e si chiamano Elcano e Macqueque, che ora fa l'artista in una città a un giorno di viaggio da noi. Ho sentito dire che è abbastanza conosciuto nella contea di Marsabit. Noi siamo la famiglia più grande, e qui vedete una piccola parte della famiglia con in centro di nuovo il Philip Jarrat. Noi siamo la famiglia più grande della zona e mio padre era il capo del piccolo villaggio di Illeret, dove sono cresciuto, vicino al confine con l'Etiopia e il lago Turkana. Ora lui non fa più questo lavoro. Vi faccio vedere un attimo qua. Microfono. Questo è Nairobi. Lassù, qua, è Illeret, là dove c'è scritto Bagna. E Illeret, e vedrete in tutto questo la città di Marsabit che ha un ruolo, Noso ha un ruolo, Bagna ha un ruolo, Maralal ha un ruolo, e poi c'è Nairobi. Però la volta che sono andato io, la prima volta, le strade asfaltate finivano qua. Finivano qua e poi tutto sterrato. Oggi si arriva con l'asfalto fino a Marsabit, solo per farvi un'idea di come sono le cose. Grazie, questo mi serve. Sì. La vita a Illeret non è sempre facile. Molti bambini devono portare gli animali a pascolare e quindi non possono andare a scuola. A volte non piove e questo uccide i nostri animali. È una cosa terribile perché come comunità pastorale dipendiamo da loro e facciamo molta fatica a trovare altro cibo. Anche per la nostra famiglia è stato difficile. Per disperazione molte persone della nostra comunità prendono droghe locali e bevono birre locali forti. Questo li aiuta a dimenticare i loro dolori, dimenticando anche altre cose. Qualche volta si dimenticavano anche di me. Mamma è diventata dipendente dall'alcol e quindi non riusciva a nutrirmi quando ero piccolo. Una volta la nonna mi ha raccontato che era lei che si occupava di me quando avevo ancora 4 mesi, cioè più o meno quando l'ho conosciuto io. Mi dava da bere acqua e zucchero e per questa ragione ho il nome che tutti usano per chiamarmi Biege, che in Dasanet significa bere acqua. Ovviamente io non mi ricordo di tutto questo. I miei primi ricordi riguardano dei sassolini con cui giocavo con il mio amico Guofuor. I sassi rappresentavano le capre che portavamo a mangiare. Ricordo anche che seguivo la mamma nei suoi spostamenti nel nostro villaggio. Lei andava nelle capanne del quartiere e lì la gente mi dava qualcosa da mangiare. Quando c'era poco cibo, l'unico modo di farmi stare tranquillo era di darmi dell'alcol con zucchero. A volte mi addormentavo quando ero con lei nella capanna di qualcuno o sotto un albero. Lei mi lasciava lì a dormire e se ne andava in altri posti. Veniva a riprendermi molto, molto più tardi. Per me era una cosa normale. I miei fratelli maggiori, invece, quando se ne accorgevano, si preoccupavano molto. Dopo, quando avevo già 4 o forse 5 anni, Niekeru, il quarto fratello, iniziò a portarmi al pascolo degli animali con lui. Ci siamo allontanati molto da Illeret. Nella nostra tribù gli animali si tengono nelle magnatas. Magnatas, allora questo è il nostro Biegi, magnatas sono questi posti dove tengono gli animali o dove ci sono poi delle capanne anche dietro. Sono un gruppo di capanne dove la gente vive circondata da un recinto che di notte protegge i nostri animali dai predatori. Quando siamo arrivati alla magnata mi hanno permesso di riposare e poi mi hanno regalato una capra e hanno anche inciso il mio segno sull'orecchio della capra. Il segno era lo stesso di mamma perché ero il suo ultimo figlio, ero felicissimo. Dal giorno dopo le cose cambiano. Per colazione una tazza di latte, di capra e poi devi stare dietro ai capretti che pascolano appena fuori dalla magnata. Devi proteggerli dagli sciacalli. Vengono a cercare di mangiare e mangiarli e io devo sempre cacciarli. A pranzo sono tornato a casa per cercare altro latte. Non sapevo che avevo già avuto la mia porzione di latte per l'intera giornata. Questo significava che dovevo tornare dalle caprette. Ho pianto molto, avevo fame. Ho dovuto aspettare tutto il giorno la cena. La cena è la cosa più bella. A quel punto gli animali, dopo averli munti, sono al sicuro nella magnatta. Tutti i bambini si siedono in cerchio intorno al latte, si divide il latte che c'è raccontando belle storie. Quando toccava a me bere un sorso dal calabash, e qui vedete che cosa è un calabash, che è questa cosa fatta di zucca nel quale mettono il latte, mi riempivo la bocca e le guance più che potevo. Tutti i bambini fanno così per prendere il sorso più grande possibile. Se qualcuno non riempie le guance, tutti gridano sciauriaco per pietà. Si dorme tutti all'aperto sulla sabbia, avevo un solo pantaloncino per tutto l'anno. Non lo lavavo mai perché la prima pozza d'acqua era a più di 30 km di distanza. Meno male che gli adulti andavano a prendere l'acqua con gli asini per gli animali e per i più piccoli e per i noi bambini. Anche le mucche, le capre e le pecore adulte sono portate alla fonte. Allora qui vedete questo trasporto con gli asini. Nella mia testa ci sono alcune cose che non posso dimenticare. Forse sono le botte che ho preso e che mi aiutano a tenerle nei ricordi. A quella giovane età ho combinato un disastro totale. Un giorno mi addormentò senza sapere che ci sono degli sciacalli in giro. Loro sono animali cattivi che approfittano del mio sonno. Quando mi svegliò, dopo un sonno molto piacevole, ero super spaventato. Tutti i piccoli delle capre erano spariti. Subito sono corso a cercarli, ma ho trovato solo una scia di sangue. A quel punto pensavo di essere vicino alla morte. Ma non perché ho paura degli sciacalli. Ero terrorizzato per la punizione che avrei ricevuto. Ho trovato solo 3 capretti in terra senza vita lì vicino, con la pancia tutta aperta e il matumbo che era uscito, il matumbo e l'intestino. Gli altri cuccioli erano tutti spariti, correndo per mettersi in salvo e non si vedevano da nessuna parte. L'unica cosa positiva che ricordo di quel giorno è che alla fine hanno ritrovato la strada di casa. La cosa brutta, invece, era che avevo uno zio che puniva i bambini colpendoli spesso con un bastone, anche quando non avevano fatto nulla di male. Quando questo zio è tornato a casa, mi ha chiesto perché mancavano degli animali. Lui, come gli altri da Sanech, questa tribù, era intelligente e conosceva gli animali uno per uno. In questa tribù nessuno va a letto senza sapere che tutti gli animali sono a casa. Per paura di essere picchiato, ho detto una bugia. Lui però è andato a cercare gli animali, subito dopo è tornato a passi veloci. L'ho visto attraverso il recinto della magnatta con in mano una lunga frusta con piccole spine. Non avevo altra scelta che correre per salvarmi, però le mie gambe erano più corte delle sue, mi ha raggiunto subito e il resto della storia si può vedere in alcune cicatrici che ho ancora oggi. Questo per cominciare. Allora, lui racconta questi primi ricordi, lui poi parla del fatto che si mangiava più o meno bene o delle volte anche male, soprattutto quando veniva a mancare l'acqua perché gli animali non stavano bene. E a un certo punto lui ha sviluppato un eczema, un qualcosa nel suo naso assolutamente molto brutto e che gli dava fastidio a respirare, diceva che ha fatto brutto odore e tutto quanto, una schifezza. E a un certo punto suo fratello Loquapeta, il primo, che era veramente già a Nairobi in quel periodo, è tornato a casa, ha visto sto bimbo con questo naso bruttissimo e ha detto che doveva essere portato all'ospedale. Allora lui fa 2 considerazioni qua, qualche pagina in là. A un certo punto c'era mio fratello maggiore Loquapeta, che era arrivato all'Ileretta Nairobi, è uno dei primi della nostra tribù che è andato a scuola e grazie ai suoi buoni voti è anche andato all'università. Anche lui ha visto il mio naso schifoso. Allora mi ha portato all'ospedale di Ileret. Quando ero piccolo pensavo che era un ospedale normale. Poi ho imparato che in quegli altri ospedali ci sono dei medici. Noi non avevamo lussi del genere. Questo è un grosso problema per quelli che hanno davvero bisogno di un medico a Ilaret. Il medico più vicino in Kenya è a Marsabit. Di solito si tratta di uno o due giorni di viaggio sul retro di un camion pieno di pesce essiccato. Bisogna quasi sempre aspettare giorni prima che passa un camion, a volte anche settimane. Il viaggio del camion è molto scomodo. Penso che quelli che ci stanno peggio sono le donne che aspettano un bambino e i malati. La strada è piena di buchi e poi potrebbero esserci dei banditi, nemici della nostra tribù, che attaccano il camion, perché gran parte del viaggio verso Marsabit attraversa il loro territorio. Molte donne hanno perso i bambini in questi viaggi. Ovviamente una situazione vera, molto distaccata da noi. E volevo farvi vedere questo recinto di Magnata, si vedono le capanne dietro, e anche le strade delle quali lui parla. Sono queste delle strade per appunto donne in alta gravidanza e su un camion dietro, cioè vuol dire ovviamente queste cose non possono andare bene. Comunque era arrivato questo fratello Lokwapeta e lui ha visto il suo piccolo fratello, che aveva anche preso il mio nome, e io avevo dato una certa disponibilità anche di aiutare per l'esistenza di questo bambino, e ha detto se lo portava a Nairobi. E allora prende il giovane Biege all'età di 6 anni, qualcosa di questo genere, 6-7 anni, se lo porta con sé e loro fanno insieme questo viaggio. Allora lui racconta fino all'arrivo di Marsabit, però un po' già l'avete sentito, e allora lui racconta questo primo contatto con una società che assomiglia vagamente, devo dire, alla nostra. Arriviamo a Marsabit dopo 18 ore, molto stanchi. Là stiamo un po' di giorni e vediamo anche mio padre, che non ho visto da minimo un anno. È stato molto bello. Ho preso del latte e mi hanno dato da mangiare un cibo strano che chiamano pane. Non mi è piaciuto per niente. Per tutta la mia vita avevo sempre gli stessi vestiti, ma a Marsabit mio padre mi ha comprato dei pantaloni nuovi e delle magliette nuove. A Marsabit fa molto freddo e avevo davvero bisogno. Ho anche avuto la prima felpa della mia vita. Non potevo credere che Marsabit fosse un posto molto più grande di Ilaret. Alcune case erano alte e le persone vivevano una sopra l'altra. Mi hanno detto che hanno 3 o anche 4 piani, ma quando ero piccolo non sapevo bene che cosa fosse un piano. A Ilaret avevo visto soli grandi camion o Land Cruiser. Non sapevo che c'erano anche piccole macchine che a volte le donne le guidavano. E poi c'erano strade belle e senza polvere, erano tutte nere, e ora che sono grande so che erano fatte di asfalto. Mi ricordo che poi abbiamo preso un autobus per andare verso Nairobi, le sedie sono comode e c'è una musica molto forte. Abbiamo ballato, lui era con suo fratello Nyaila, abbiamo ballato nell'autobus. L'autobus ci ha portato a Nanyuki, una città che sta vicino al Monte Kenya. Non mi ricordo bene la montagna, ricordo solo il freddo gelido. Gli abbiamo preso una piccola macchina per noi tre più l'autista, io e Niela eravamo seduti dietro e facciamo a gara quale macchina ci superasse. Alla fine arriviamo a Nairobi. Questo posto non ha senso, c'erano così tante macchine che non potevano nemmeno muoversi. Vedevo anche edifici alti alti e non sapevo come facesse la gente a salirci su. Pensavo che erano molto forti per camminare fino in cima. Dopo anni ho capito che in quelle case ci sono gli ascensori. Siamo andati alla casa di Lokwapeta e abbiamo visto sua moglie Gude. Molte persone ci hanno salutato, ma parlavano strano. Se ci parlavano in inglese non diceva niente. In Kiswahili, che è la lingua nazionale, se si dicevano habari yako, cioè come stai, noi dicevamo mzuri, cioè bene, e Gude ci ha spiegato come salutare le persone, dovevamo alzarci e dare la mano alle persone. Dopo un po' ci portano a scuola. Il primo giorno piangevo. C'erano tanti bambini e non potevo parlare con loro perché parlavo solo da Sanech e qualche parola di Kiswahili. Hanno portato me e mio fratello Nyaila sotto un albero nel cortile e ci hanno insegnato a scrivere i numeri da 1 a 10 e tutte le lettere. Dopo 6 giorni che facevamo i numeri e le lettere ci hanno messo nelle classi. Non potevo scegliere, io dovevo andare all'asilo, ma per Nyaila, che aveva 2 anni, anni di più, è andato meglio. Non mi piaceva per niente e mi sentivo scemo. Non sapevo parlare, non sapevo leggere, non sapevo scrivere e tutti i bambini più piccoli sapevano più cose di me. Avevo paura a chiedere ai maestri se potevo andare a far pipì, allora facevo nel posto dove ero seduto. Poi tutte le settimane, il venerdì, la scuola andava in gita. Il primo venerdì ero terrorizzato, pensavo che dovevamo salire sull'autobus per farci uccidere. Ho dovuto obbedire e alla fine mi sono seduto nell'autobus accanto all'autista e alla maestra Ruth, che mi ha dato la merenda. Alla fine, pian piano, la paura è passata. Per fortuna, questo tempo difficile è passato in fretta. Dopo un paio di settimane parlavo un poco la loro lingua e credo che la gente pian piano si è resa conto che non sono un bambino silenzioso e neanche lo scemo dell'inizio. I miei voti sono migliorati velocemente e ero meglio dei piccoli. Però c'era una bambina con il naso sempre tappato che continuava a sconfiggermi con facilità. Ricordo il nostro litigio sulla pronuncia di three, cioè tre, e tree, albero. Per me era uguale, ma lei non era d'accordo e faceva la the di three molto più bella. Allora, questi erano praticamente i suoi primi incontri con la scuola, e questi incontri purtroppo non sono durati tantissimo e lui non si ricordava bene perché poi non è rimasto a Nairobi. Qui faccio un piccolo inciso perché io, questo Biegi che ho conosciuto effettivamente molto più tardi, mi ha detto che voleva scrivere qualcosa sulla sua tribù e io gli ho detto: se tu vuoi fare questo io ti aiuterò. E io non volevo diventare autore di nessun libro, volevo che lui raccontasse la sua storia di una realtà che noi conosciamo molto poco e volevo eclipsarmi in questa cosa, però ovviamente dovevo aiutarli un po'. Allora noi ci siamo seduti, gli ho fatto raccontare la storia e poi l'ho scritta con lui, cioè prima me l'ha raccontata in modo che io la comprendessi e poi gli ho aiutato un po' a mettere struttura a queste cose qua, ma eravamo sempre su tutti insieme a effettivamente scrivere questa cosa. E là dove lui non sapeva, e io sapevo, non abbiamo messo queste cose. Io sapevo perché non era rimasto a Nairobi, io me lo ricordavo, però era la sua storia e non volevo interferire. Non so più perché non sono mai tornato a scuola, forse per un problema di tasse delle scuole o forse perché qualche altro motivo. Comunque mi sono trovato di nuovo a Illeret quando siamo tornati. Nyaila e io eravamo i bambini moderni della città. Dopo 6 mesi a Nairobi avevamo quasi dimenticato la nostra lingua, eravamo abituati a mangiare e bere cose diverse e alla TV. Dimenticavamo pure quanto caldo facesse a Illeret. A Nairobi avevamo tutta l'acqua che volevamo per lavarci, cucinare, bere, anche far la doccia. I bambini di Illeret non sanno neanche che cos'è una doccia, vanno al lago per fare il bagno. Forse era vero che noi eravamo i bambini moderni, ma ora dovevamo noi adattarci. Dovevamo camminare moltissimo per andare a prendere l'acqua, dovevamo dormire su una stuoia sottile all'aperto, non sul letto così comodo di Nairobi. Allora qui questi sono i bambini che vanno al lago Turkana, il posto è magnifico, insomma. Dopo questo c'era l'idea di farlo, cioè il padre suo, cioè il padre di questi ormai più di 30 bambini, voleva che questo Nyaila e Biegi andassero a scuola. E si è posto un problema che è forse assurdo, cioè quello che ci voleva un uniforme per la scuola. E comunque il Kenya è una colonia, colonia inglese, e la, l'uniforme è una cosa che è obbligatoria, cioè vuol dire nei, nei posti più assurdi è obbligatorio. E poi questa era anche una famiglia di un una certa importanza, e non, non era possibile mandare un bambino a scuola senza uniforme. C'era un negozietto, c'era una donna che aveva le uniformi, vendeva le uniformi, però si dovevano prendere a Marsabit. E in quel periodo c'era questa cosa del tribal killing, cioè del, del, della, di queste guerre tra tribù, e la tribù vicina, loro sono Dasanè, cioè la tribù Gabra, erano in conflitto. E con questo non si poteva più attraversare, cioè non si poteva più arrivare da Illeret fino a Marsabit, non era possibile. E allora non c'era uniforme, allora così i bambini non potevano andare a scuola. E per questa, quest'idea abbastanza assurda è cascata l'idea che i bambini andassero a scuola. Non so come siamo col tempo, vado, vado ancora avanti un po'. A quel tempo mio padre aveva bisogno di qualcuno per stare dietro ai camelli. E così, visto che non potevamo andare a scuola, dovevamo farlo io e Nyaila. I camelli dovevano essere portati ogni giorno sulle rive di torrenti dove ci sono gli alberi di acacia. Mangiano dagli alberi come fanno le giraffe. Non gli importa nemmeno delle terribili spine di questi alberi. Ora, occuparsi dei camelli è tutta un'altra cosa rispetto alle capre. È vero che non si deve pensare agli sciacalli, però i camelli camminano veloci, tirano calci, possono inseguirti e non obbediscono ai bambini. L'unico modo in cui potevamo guidarli era con dei bastoni molto lunghi. Se non obbedivano neanche così, dovevamo tirargli delle pietre per farli andare sul sentiero giusto. Ogni giorno avevamo 40 camelli da portare sul letto del fiume asciutto per riportarli poi la sera nella magnatta. Ogni 3 giorni dovevamo abbeverarli portandoli alla sorgente, e alla fine ogni giorno potevamo mungerli. Allora riempivamo 2 taniche da 5 litri che dovevamo portare a casa e poi mungerli di nuovo la sera appena arrivati. La cosa brutta è che c'era un camello maschio aggressivo che ci faceva molta paura. Questo si era unito al, al gruppo da solo e non era neanche il nostro. È arrivato perché era interessato alle nostre camelle. Ma i camelli maschi del nostro gruppo non piaceva al visitatore, neanche il suo tentativo di accoppiarsi con le camelle femmine, che spesso finivano in combattimenti anche pericolosi per noi. A volte questo brutto animale se la prendeva con noi, ci inseguiva e noi dovevamo correre per salvarci. Più di una volta sono stato preso a calci nel petto, ma per fortuna mai da questo maschio cattivo. Fa molto male quando si prende un calcio da un animale così grande. A volte mordono pure, ma per fortuna non mi è mai successo. Poco prima di andarmene con i camelli ho avuto il primo rito dove dovevo dimostrare il mio coraggio, e probabilmente è stato un bene farlo prima di questa esperienza con i camelli. Io, come tutti i bambini della mia età, dovevo dimostrare che ero forte e che sopportavo il dolore. Nella tribù abbiamo degli anziani che lo fanno di lavoro, che vengono a toglierci 2 denti davanti. Lo fanno con i denti da adulto, quelli che poi restano per sempre. Vengono con i loro strumenti apposta. Non ho pianto quando gli anziani mi hanno tolto i denti. È stato molto doloroso, ma a quel tempo non sapevo di dover fare rituali più duri durante la mia infanzia. Cioè queste prove di forza ovviamente sarebbero molto poco di moda nell'educazione dei nostri figli, però, però questa è una situazione che invece è vista in modo molto diverso nell'educazione del bambino africano, che prende, cioè tribale facciamo, dove devono dimostrare la forza, devono difendere la propria tribù e così via. Adesso vi dico, e magari chiedo, lui fa riferimento a una seconda cosa, che è un dolore molto più duro che doveva affrontare più tardi, e io mi sono chiesto se parlare di questa cosa oppure di lasciarla in sospeso. In altre parole, si tratta del rito della circoncisione. Facciamo questo? O... No, fa parte, credo, anche della storia del ragazzo. E per quello che riguarda il racconto, è una parte importante del racconto. Sì. La storia di questa circoncisione penso che si possa sicuramente... Va bene, allora faccio e vi racconto questa cosa. Allora, c'è una cosa importante nella vita di ogni ragazzo d'Assanec. È il rito della circoncisione, il passaggio più importante della vita, perché da ragazzo nella nostra comunità si diventa guerrieri educati col compito di proteggere la tribù. Per questo motivo ci sono molte cose da fare prima della circoncisione. Si inizia e poi lui descrive tutte le cose, devono andare a prendere certi bastoni che devono camminare 30 chilometri per averli, devono, tante cose che devono fare, tante preparazioni per il rito. E comunque li salto per non essere troppo lungo e vado un po' più alla cosa vera. Quando il momento si avvicina, i ragazzi diventano più nervosi. E mettono anche suoni nervosi. Sanno che dovranno essere molto coraggiosi e che dovranno sopportare il dolore quando verranno tagliati nella pelle fresca. Cioè, questa è una cosa che si fa a età adolescenziale, più o meno. Per i ragazzi d'Assanec ci sono due persone che vengono a tagliare i prepuzzi. Tutti sperano di essere tagliati da Nyakwar, che è famoso per essere il più bravo. Per essere sicuri che sia lui a tagliare, ogni ragazzo deve portargli due capre. È un uomo ricco. Nel 2017 c'erano 300 ragazzi, questo fa 600 capre per Nyakwar. La gente dice che all'ultima circoncisione, 6 anni prima, c'erano quasi 3.000 ragazzi. So che quei ragazzi dovevano aspettare a lungo prima di essere chiamati dagli anziani per la circoncisione. Questo mi fa credere che era vero quello che ho sentito. Quello di cui sono sicuro è che Nyakwar è ricco, più ricco di tutti nella zona, ma è bravo a tagliare, forse se lo merita. Quando nel 2017 è stato preparato il rito della circoncisione, ero molto piccolo. Di solito viene eseguito per i ragazzi più grandi, per questo io guardavo gli altri ragazzi mentre cantavano, ballavano e benedicevano le signore, oltre a lavarsi ed essere puliti al massimo come vuole la tradizione. Era l'undicesimo mese dell'anno, un periodo in cui fa molto caldo all'Ilaret. Qualche giorno prima della circoncisione i ragazzi arrivavano con il modog, che era un particolare vestito. Leggerete se leggerete, ma comunque. Salto un'altra piccola cosa. I membri della tribù cantano a voce alta e ballano intorno ai ragazzi nervosi. Ai ragazzi viene dato molto latte e zucchero. Il primo ragazzo del clan si chiama Ar, quando Nyakwar dice Ar Kagaye, deve andare a sedersi sopra alla buca di fronte a Nyakwar. C'è Nyakwar che fa la circoncisione, ha scavato una buca circa 30 cm di profondità, i ragazzi si devono sedere sopra perché il sangue viene raccolto in questa buca. Il ragazzo e tutti gli altri dopo di lui non possono mostrare di sentire dolore durante il taglio. Devono appoggiare le mani sulle ginocchia e quando il coltello inizia a tagliare non devono stringere le ginocchia con le mani o sbattere le palpebre. Se muovono le dita o fanno rumore, o ancora peggio, piangono, vengono picchiati a sangue dagli anziani. Non è permesso, perché i ragazzi devono essere dei guerrieri dopo la circoncisione e i ragazzi deboli non sono accettati. La circoncisione vera e propria dura meno di un minuto e poi i ragazzi, mentre stanno ancora sanguinando, si coprono e escono per far spazio al prossimo ragazzo della fila. Una volta fuori, molti di loro svengono, ma lo svenimento è permesso e nessuno gli fa problemi. Anzi, dopo che hanno finito, tutti i ragazzi vengono trattati al meglio da parte delle molte persone che c'erano all'evento. Allora, queste sono delle cose un po' generiche, e poi dopo un po' lui comincia a raccontare della sua circoncisione, che è una storia divertente, che comunque salto, e poi parla del momento che lui viene circonciso. Lui si era messo in fila con gli altri ragazzi, ma non era tanto programmato, non aveva fatto la preparazione, ci stava giocando, e poi li toccava. E questa era una cosa che lui da bambino non sapeva neanche, però le stesse regole severe della circoncisione ovviamente valevano anche lui. Allora lui parla perché era in fila con il suo fratello Njaila, che era più grande. Prima toccava a Njaila e poi toccava a me. Sapevo di dover aprire la pelle di capra quando mi sono seduto sopra il buco di fronte a Nyakwar, dove c'era il sangue di tutti gli altri ragazzi. Nyakwar aveva tutto il viso dipinto di bianco e nero e il suo aspetto faceva molta paura. Aveva una sciuca, che è un pezzo di stoffa intorno a lui, intorno alla vita, il petto nudo, e sudava. Oltre a lui c'erano molti coltelli, alcol e acqua. Per molti clan prima del nostro, Nyakwar usava lo stesso coltello per tutti i ragazzi. Ma mio padre sapeva che questo era pericoloso e l'aveva convinto a usare un coltello nuovo per ogni ragazzo. L'acqua che usava era per lavarsi le mani e a volte anche per bere. L'alcol era lì solo per lui per bere. A volte gli ultimi ragazzi non erano fortunati, perché quando arrivava il loro turno, Nyakwar era già ubriaco. Quando si ubriacava e cominciava a fare brutti tagli, c'erano due assistenti che lo aiutavano con i ragazzi rimasti. Ecco, vi immaginate. È veramente il primitivismo più crudele e più insopportabile che ci sia, con un uomo ricchissimo che fa questo lavoro e che si arricchisce sulla stupidità degli altri. Questa è la realtà. Mi dispiace, volevo tenere la bocca chiusa, ma non ce la faccio. Sono furiosa. Sì, sì. C'è lo scopo di questo libro era di raccontare una realtà diversa, una realtà che noi non conosciamo, e giustamente raccontato da un ragazzo che trova tutto questo normale perché è cresciuto in questo ambiente. E qui in questo libro, e sicuramente nelle loro culture, ci sono delle cose che per noi sono incompatibili con la nostra cultura, assolutamente. Però io pensavo proprio che il valore di questo libro fosse nel fatto che è un ragazzino che racconta, e lo racconta come un ragazzo che racconta la sua normalità. E poi penso che sia una cosa utile che noi ci confrontiamo con delle realtà che sono veramente diverse. Secondo me è questo proprio lo scopo del libro. Se questo fa rabbia... cioè, lui lo racconta senza giudizio, e qui dentro ci sono tante cose, e poi, visto che ci siamo, lui accenna anche al rito della circoncisione femminile, che anche questa viene fatta, viene praticata in queste, però lui come bambino, come ragazzo, racconta solo che il suo amico è andato là la prima volta e si è ciucato. Perché era questa la cosa che a lui interessava, cioè vuol dire la ciucca dell'amico. Cioè, non ha, giovane com'è, come ragazzo, con poco esposto non conosceva proprio la nostra cultura, è un ragazzo che racconta una vita che a noi è estranea. E secondo me è proprio questo scopo anche di questo libro, cioè vuol dire scopo di capire questo approccio relativamente infantile, possiamo dire, a raccontare una realtà che è completamente diversa. E secondo me ci sono comunque argomenti da prendere. Cioè, io sono stato molto influenzato personalmente da culture africane e ci sono determinate cose che preziose che ho portato a casa dal fatto di conoscerli. E questo lo trovo, cioè io sicuramente mi ha arricchito, cioè con questo non dico che vogliamo noi importare le loro culture, però cercare di capirle, sì, ecco questo secondo me sì. Comunque la storia, ho chiesto prima se leggerla o meno, l'ho letta, e questa questione è una questione, ovviamente sapevo che effettivamente coinvolge anche le nostre emozioni. Faccio forse una piccola altra lettura. A un certo punto c'era di nuovo un bisogno medico e questa volta lui è andato con un altro fratello in Etiopia e quando stava rientrando dall'Etiopia, che non è lontanissima, aveva bisogno di dormire da qualche parte nel tragitto. È arrivato a una scuola, e potevano dormire là. Ho visto che in questa scuola elementare, che non era la sua, c'era molto cibo. Ne hanno dato anche a noi. Tutto questo cibo per gli studenti mi ha colpito, mi ha interessato molto. C'erano solo pochi studenti, forse 30 o anche 40. Gli insegnanti non mi sembravano molto bravi, sembravano tutti ubriaconi. E questo era vero anche per alcuni studenti, ma soprattutto sono rimasto colpito dalla quantità di cibo che avevano. Il giorno dopo siamo tornati a Ilaret, allora cioè lui ha dormito là, era la prima volta che andavo a scuola dopo la circoncisione. Dopo una settimana di scuola ho parlato con mio fratello Biri, era il figlio della mia seconda matrigna e aveva un anno più di me. Gli ho raccontato del cibo della scuola elementare di Sies Lucio. Abbiamo deciso di iscriverci a quella scuola senza nemmeno dirlo ai nostri genitori. Al mattino dopo la scuola di Ilarit abbiamo mangiato qualcosa, a pranzo messo in un sacco le nostre poche cose e poi siamo partiti. Io avevo due magliette e l'uniforme e Biri lo stesso. Abbiamo iniziato a camminare e per fortuna sulla strada per Sies Lucio passava una macchina, ci hanno dato un passaggio senza nemmeno chiedere soldi. Era anche tardi ed era quasi buio, se no avremmo dovuto camminare fino a notte fonda. La distanza da percorrere era di circa 20 chilometri. Il signor Yarat, che mi aveva tenuto da dietro durante la circoncisione, era un insegnante di quella scuola. E quando siamo arrivati avevamo paura di incontrare Yarat perché eravamo scappati da casa. Ci siamo seduti dietro casa sua a parlare tranquillamente. Un ragazzo che ci ha visto ci è venuto a chiedere che cosa stavamo facendo. Lì era più o meno della stessa età di Birri. Questo ragazzo era molto gentile e dopo è diventato nostro amico. Gli abbiamo detto che eravamo i figli del capo Moroto e che volevamo andare nella loro scuola. Ci ha chiesto se conoscevamo qualcuno nella scuola, ho risposto di sì, l'insegnante Yarat. Allora ci ha portato a casa sua, il maestro Yarat. Ci ha fatto molte domande, voleva sapere perché eravamo scappati da casa, dai nostri genitori, e quando glielo abbiamo spiegato ha deciso di ammetterci alla scuola. Ha chiamato una signora che era un'insegnante di Meru, che è una città un po' distante, si chiamava Mama Come. Lei ha preso Biri a casa sua mentre l'insegnante Yarat ha preso me. Hanno controllato quello che avevamo portato con noi e ci hanno lasciato usare l'uniforme della scuola di Ilaret nella loro scuola elementare. Così ora eravamo felici e pronti. Dopotutto l'unico motivo per cui l'avevamo fatto era che volevamo avere quel buon cibo. Questo era il nostro segreto assoluto e gli insegnanti non l'hanno mai saputo. Insomma, è stato un successo pieno. Cioè, infatti, e questa è una cosa, cioè vuoi dire, il cibo ha avuto un ruolo assolutamente immenso. Lui poi, poi ha, dopo questo di nuovo è tornato a Hillered, è finito a scuola per un breve periodo dove di nuovo non c'era niente da mangiare. Poi c'erano le vacanze, nelle vacanze è andato a occuparsi degli animali, è arrivato da suo fratello Laur, nella fora si chiama, cioè che sono i pascoli, insomma. Mio fratello Laur, che era un ragazzo che non è mai andato a scuola, che è un fratello più grande di lui, mio fratello Laur, che viveva lì e non era mai andato a scuola, mi ha convinto a restare con lui anche quando la scuola stava per iniziare. Cioè, lui aveva fatto il periodo delle vacanze, doveva tornare a scuola e Laur gli ha detto: ma perché? Mi aveva detto che era più facile trovare una ragazza se si rimane con gli animali. Mi aveva detto anche che i nostri anziani ci daranno un fucile per proteggere gli animali. I ragazzi della sua età avevano già dei fucili e io li invidiavo per questo. Ecco. Mi aveva detto che se rimanevo con lui ne avrei avuto uno anch'io, allora io potevo sposarmi e persino pagare la dote per mia moglie. Allora avevo solo 12 anni, ho seguito il consiglio di mio fratello Laur e ho deciso di rimanere con lui e con gli animali anziché andare in quinta. Nyla invece ha deciso di tornare a scuola. Così ancora una volta ho lasciato la scuola e sono diventato un guerriero come vuole la tradizione nella nostra tribù, che si occupava degli animali e difendeva i Dasanech. Più tardi avrei preso un fucile e l'avrei usato per difenderci dalle tribù nemiche Gabra e Hamar, che non erano lontane da noi. A volte ci attaccavano per rubare gli animali. Era un periodo bellissimo, perché la pioggia era molta, i pascoli erano verdi, c'era acqua per tutti e non c'era nemmeno bisogno di spostarsi per dare acqua agli animali. Anche il latte era molto, vivevamo bene perché gli animali erano sani e non avevamo nemmeno bisogno di camminare o di lavorare molto. Sapevo che mio padre mi voleva rimandare a scuola a studiare, ma non poteva prendermi, ero lontano da Hillered e non c'era oggetti per parlare a distanza. Poi questo, adesso devo vedere se trovo, cioè, il ragazzo, adesso non lo so, me lo sono marcato, non lo trovo, il ragazzo è tornato, cioè vuol dire, ha fatto questo, ha avuto un bel periodo e poi è venuto un periodo che invece non pioveva. E là, quando ci sono periodi che non piovono, ci sono tanti riti, ci sono i vecchi che puntano le spade al cielo perché vengano delle nuvole e ovviamente tutte queste cose non hanno funzionato. E non funzionando queste, hanno cominciato a morire gli animali. Poi loro non hanno più niente da mangiare. Quando non hanno il latte, cioè gli animali quando cominciano a star male, l'unica cosa per nutrirsi è quella di pungere una vena, di prendere il sangue e di mangiare il sangue, eventualmente mescolandole col latte, però quando non c'è acqua gli animali non danno latte, allora si prendono gli animali ancora più forti, si prende il sangue, si deve bere in fretta perché sennò coagula e non piace ai bambini questa cosa. E poi succede che tutti questi animali, si cerca eventualmente di ammazzare gli animali prima che muoiono, ma veramente quello che succede è questo. Si vedono gli animali e muoiono in grandi quantità e muoiono tutti insieme. Allora effettivamente non c'è nessun modo di preservare la carne e c'è vera fame. Questo gli è successo e poi si trovava molto male e ritornato là dove, a scuola dove c'erano i suoi fratelli, però non poteva più entrare, era finito, cioè non, e i fratelli dicevano: noi avremo le macchine un giorno perché abbiamo studiato, andrà tutto bene, e lui ha detto: non è vero, perché io avrò un fucile, io avrò la possibilità di avere la moglie prima di voi, e hanno litigato su questa cosa. Poi la storia va avanti, cioè adesso io penso che possiamo anche lasciarla, cioè questo è il momento quando lui tornava dalla fora affamato, con tutti, avendo visto tutti questi animali morti, e con questa cosa messa in testa a una bambina di questa corporatura, facciamo, di sposarsi e di avere fucili e di avere, cioè, sogni di questo tipo. Ecco, questo, poi la storia va avanti. Adesso, oggi, Biagi è un ragazzo che va a scuola, va, fa le scuole secondarie, è riuscito, perché è stato molto bravo, a fare la scuola elementare. A un certo punto è finito a Maralal, è vissuto da solo con un amico della sua età, scuola elementare, cioè poco più grande di questo, da solo si è cucinato, si è fatto, con un aiuto economico che veniva poi da fratelli e anche da me, e si gestiva da solo, faceva, cucinava, doveva pagare l'affitto, doveva far tutto, è riuscito a fare la scuola elementare, finirla, e poi dopo siamo a questo punto riusciti a dargli un accesso a una scuola secondaria, dove lui è adesso. Poi ha voluto partecipare nella banda della scuola che c'è, questo adesso è vicino a Nairobi, adesso suona la tromba, c'è tutta un'altra vita, insomma. Però è una storia che, quando io sono stato ricoinvolto in questo, che mi ha toccato molto e che mi ha dato veramente molta voglia di raccogliere questa testimonianza, e della quale signor Zucchero e io abbiamo avuto molte discussioni, perché io non volevo essere l'autore di questo libro, volevo che Biagi lo fosse, ma poi per motivi di realtà anche qua, questo ovviamente non era un formato tecnicamente possibile. Ci sono tante cose culturali che ci distanziano moltissimo, ma io sono affascinato da questo e posso dire che per la mia vita ho imparato molto, ecco. Grazie per la sua lettura e i capitoli che ha scelto dal racconto del giovane ragazzo. Si esume dalla prefazione al testo base, dalla sua prefazione, che il ragazzo voleva anche che fosse scritto, che queste sue testimonianze fossero scritte, e così verba volant, scripta manent, ovviamente rimangono nell'immaginario. E ho letto anche nell'ultimo passo della sua prefazione che il libro, il testo, non il libro è uscito dopo, il testo è stato anche raccontato in Dasanach, alla tribù, e ovviamente lì molti si sono rivisti in questo racconto. Sì. È stata forse la motivazione principale del giovane ragazzo che fosse scritto, che non sparisca questa tribù e le tradizioni, la cultura, o è sbagliato? Sì, no, cioè lui, quando ha conosciuto il mondo, cioè quando si sono anche incrociate la mia cultura, la cultura di suo fratello e quella sua, lui pian pianino si è accorto che la sua infanzia non era quella che avevano fatto tanti altri ragazzi a scuola, e così aveva voglia di raccontare questa cosa. Non pensava certo che si facesse un libro di questo, cioè noi volevamo farlo per noi, questo era nato come un progetto personale. A me piaceva molto che lui mi raccontasse questa cosa, perché così capivo anch'io meglio. Già conoscevo la tribù, conoscevo la famiglia, molto bene il padre, che è veramente un amico mio, direi. Vuol dire, a me era stato un avvicinamento ulteriore a questa cultura. E vi faccio... Cioè, vuol dire, lui voleva fare questa cosa. Io vi faccio un piccolo esempio che mi ha molto stupito di questa cultura, che avevo già raccontato a Zeno, per esempio. Ma loro, nella loro lingua, non hanno i numeri e non hanno le formule di cortesia. In altre parole, non hanno una parola per grazie. E questo è nella nostra interazione sociale che abbiamo, veramente una cosa difficilissima. Togliere togliere grazie, prego, scusa e queste cose, cioè, questo è veramente molto difficile. Però c'è il pensiero, che questo l'ho imparato dal fratello grande, non da lui, è troppo giovane, ma comunque c'è questo pensiero che nel momento che qualcuno si aspetta gratitudine, lo fa per se stesso. Allora la cosa, cioè praticamente quello che si offre, che dovrebbe dare la gratitudine, è una cosa che ha una forma di egoismo. Cioè, perché non è genuino, se veramente uno l'avesse voluto fare non si aspetta le grazie. E questo è una cosa che mi ha molto influenzato, cioè lo trovo difficile nell'interazione con loro, perché delle volte si dice ma potresti anche dire grazie, cioè perché è la nostra forma di comunicazione, però devo dire che apprezzo moltissimo questo pensiero, che una cosa è genuina nel momento che non richiede una reazione che dimostra che sia apprezzata. Bella cosa, un bel pensiero, secondo me non veramente praticabile per noi, però sicuramente una cosa che ho imparato dalla loro cultura. La stessa cosa, non contano gli animali. Gli animali sono timbrati e poi l'animale timbrato appartiene a una persona, però se ne ha 20, ne ha 50, non lo sanno. Ma se io chiedessi al mio amico, papà di Biegi, quanti figli ha, non lo sa, non li conta, li ha. E questo anche questo è una cosa, cioè dire, che per noi è difficilmente immaginabile. E questo è immaginabile tante cose. Sì, sì. 100 figli, 40 figli. Sì. Ma effettivamente i bambini sono cioè, i bambini di tutti, cioè, questa è un'altra cosa di questa tribù. Cioè, voi, ci sono gli adulti e ci sono i bambini, e non c'è neanche questa idea che qualcuno si siede a mangiare e cucina per tre, per dire, questo no. Cioè, vuol dire, si prepara e quando si è insieme si mangia insieme. E poi dopo si va a mangiare insieme da un'altra parte, ma non c'è questa cosa di proprietà e del, cioè vuol dire, con i bambini ovviamente si condivide, cioè i bambini sono molto meno personalmente relazionati ai genitori come da noi è. Ci sono gli adulti che si occupano dei bambini, e così lui è stato in diverse famiglie anche, cioè vuol dire, delle matrigne e così via. E c'è competizione per il mangiare, questo c'è, però è diverso. Se ci sono altre domande, perché già sono scaturite. Auch auf Deutsch, selbstverständlich, können wir Fragen stellen, nicht? Gerne, gerne, ja. Pensa di proseguire quel racconto, cioè di raccontarci il seguito? Questo non lo so, dipende quanto interessante diventa la vita di Biegi. Io ovviamente la vivrò, allora, cioè, vuol dire, io lo conosco ormai. Devo dire che una cosa, che quando noi abbiamo scritto questa cosa, l'abbiamo scritta a Nairobi l'anno scorso, dopo ho deciso che io volevo rifare questo viaggio. Io avevo fatto questo viaggio 20 anni fa, quasi 20 anni fa, cioè quando è nato lui più o meno, e poi ho detto voglio rivedere, lo volevo perché sapevo che c'erano degli sviluppi in questa zona, avevano fatto una diga nel fiume Omo e così erano arrivate delle strade e così via, e io volevo vederlo per vedere che cosa succede in 20 anni da loro, cioè praticamente. E questo viaggio l'ho fatto, posso far vedere due foto? Faccio vedere, cioè questo viaggio che ho fatto, cioè 2 mesi fa, cioè completamente di attualità, di come sono le cose oggi ancora. Allora, questo è il ragazzo Laur, quello che aveva il fucile, che è venuto da lontano perché sapeva che io venissi. E poi qui per esempio si vedono come oggi i bambini trasportano l'acqua, cioè non è cambiato niente, cioè queste sono le cose, anche queste rimaste come erano. La mia macchina ce l'ho ancora, che è questa qua, quando arriva una macchina, ovviamente un evento, si la circondano, c'è questa cosa che ci sono gli specchietti esterni della macchina e i bambini si avvicinano e certi si vedono per la prima volta, hanno mai visto uno specchio, non si sono mai visti in faccia. E questo è sempre uno spettacolo, è molto divertente perché poi fanno le facciacce e guardano le cose, è abbastanza divertente. Questo è un recinto di Magnata dove ci sono bambini, vabbè, una foto che ha fatto. Qui è una tribù nemica, che sono gli Amar, e noi abbiamo fatto un viaggio nella zona degli Amar, e questo è una, là c'erano dei problemi di guerra praticamente, si sono ammazzati tra Amar e Dasanech. Questo ancora succede, viene ancora celebrato quando un giovane ha ammazzato qualcuno della tribù nemica o la tribù vicina, che è più o meno la stessa cosa. Per questo motivo, quando noi siamo andati in queste zone, mi sono raccomandato con quelli che c'erano che non parlassero una parola di Dasanech, ma solo inglese, in modo che non si facessero riconoscere per essere di quella tribù. Qui c'è un ragazzo, qualsiasi, una foto, e questo per esempio è una donna Hamar, e vedete che ci sono ancora delle tradizioni che sono perfettamente intatte. Questa donna non c'ha niente di stoffa, sono solo pelli di animale e così via, cioè sono ancora delle cose di tradizionali che esistono. Questo è la tribù dei Dasanech, queste sono delle ragazze Dasanech, molto decorate, molto belle e così via. E là, quando noi c'eravamo, appunto parlo di Natale, cioè vuol dire di poco tempo fa, c'era una coppia, di giovane coppia, di un uomo e una donna che avevano avuto una bambina, credo bambina, bambino, che è morto poco dopo la nascita, e così hanno dovuto purificarsi, e questa purificazione ha avuto luogo quando noi c'eravamo. Hanno tagliato il collo di una capra e li hanno purificati sotto il sangue di questa capra, e questo è l'uomo che doveva passare sotto il sangue e poi il suo petto, e poi la donna che doveva passare sotto, che anche lei veniva purificata dal sangue. Sono cose che sono abbastanza incredibili. Poi sempre nella tribù Bieji, questi Dasanech, si vede come vivono, si vedono più o meno delle casette dietro, e questo là, eravamo andati in una zona dove anche in questo caso c'era questa rara occasione del dimmi, che è descritto nel libro, cioè dei riti che si eseguono per la circoncisione femminile. Altro argomento difficile. Si vede qua, si vedono questi giovani guerrieri che fanno queste celebrazioni e così via. Come si è visto sul titolo del libro, Bieji va ancora molto volentieri sugli alberi, anche il titolo del libro è Bieji sull'albero, delle volte non sa bene dove scendere, allora salta. Ecco, e con questo sì, concluderei un po' le immagini che abbiamo fatto con questa macchina in tanti insieme, in posti che sono comunque molto belli. Ecco. Grazie mille, penso che si possa chiudere questa sezione interessantissima con un testo non letterario, sì, ma un racconto che parte da l'oral history, a dire la verità, no? Mm-hmm. Che viene poi raccontato e viene ricordato. C'è anche un po' la fase del ricordo che entra nella sostanza di questo testo. Grazie a voi per l'attenzione, per l'interesse, e grazie soprattutto a lei. No, grazie. E buona grazie serata. Assolutamente sì. È molto difficile avere dei visti, avere dei, cioè vuoi dire, ma al di là di questo, Sicuramente gli piacerebbe, sicuramente gli piacerebbe, e penso anche che gli faccia bene, perché uno potrebbe dire ma gli fa proprio bene vedere queste cose, le aspettative non diventano troppo pretenziose, diciamo, magari lo vizio, cioè, insomma. Però io non penso questo, io penso come ha fatto bene per me vedere la loro cultura, cioè allargare un po' le conoscenze è un bene, cioè, e penso che così sarebbe bene che lui vedesse anche qua, vedesse il bene e anche il male di qua, assolutamente penso che sarebbe, cioè, è una cosa che vorrei fare, vorrei invitarlo prima o poi, sì. Sì. L'equilibrio, credo che il loro equilibrio perda, conoscendo il mondo di qui, perda la forza che loro hanno ancora, la sicurezza di sé, la perdono, ecco perché abbiamo tante storie di atti terroristici di persone che vengono da paesi sottosviluppati, arrivano in un paese molto civilizzato, perdono la testa, non c'è motivo, neanche nessun motivo, è soltanto psicologico. Quindi queste persone è bene che restino lì. Noi siamo avanti con la testa, lei se va lì, sì. Guarda, ma resta lei, il signor Bonhoeffer. Mentre loro non sanno più chi sono. Cioè, questa è una cosa che effettivamente ho discusso con tanti, argomentato con tanti. L'Occhapeta, il primo di questa famiglia, ha fatto un master's alla Sant'Anna di Pisa di conflict management, cioè gestione di conflitti. E lui è una persona estremamente colta, cioè veramente sa tantissimo, conosce la politica mondiale molto bene, è una persona molto intelligente, ma anche Piegi è proprio un ragazzo intelligente. Sì. Secondo lei la cultura è una conoscenza di nozioni oppure una crescita interiore? Penso che sia, certamente deve essere una crescita interiore, però secondo me Locoveda ha 40 anni ed è una persona veramente un buon amico, e se gli chiedo a lui ma ho fatto bene a farti fare il tuo master, cioè aiutarti a fare il master, lui non risponderebbe con un sì chiarissimo, no, però alla fine direbbe di sì, certamente, però lui ha avuto difficoltà di differenze culturali molto importanti, cioè è ancora oggi è tra due mondi, e questa cosa per lui è complicata, però penso che la considerazione finale sarebbe quella che pensa che sia meglio vedere le cose che non vederle. Però ammetto che non c'è una risposta chiara a questa questione, assolutamente. Sì. Nel vivo della vita di questi ragazzi, di queste persone, il loro mondo è quello, poi chiaro, studiano, vanno all'estero, conoscono e poi decideranno cosa fare, no? Sì. E io credo che loro sì, riceveranno qualcosa da noi, che può essere l'istruzione o ecco, poter andare, ma noi riceviamo anche moltissimo. Moltissimo. Sì, sì, noi impariamo proprio qual era la nostra vita, il fatto della comunità, dove tutti si sta insieme, si aiuta, non c'è un padre, non c'è una madre, tutti si preoccupano di tutti, quindi sì, il dividere. Mm. Tutto insieme, non è mio, è nostro, è della nostra comunità. Quindi è chiaro che anche per noi, quando viviamo o vediamo queste cose, ne restiamo profondamente colpiti, però portiamo senz'altro a casa tanto. Infatti io avrei quasi voglia di chiedere a voi, come che avete adesso un'idea di quello che è questo libro, quali sarebbero i lettori ideali? Cioè, secondo me questa è una cosa, io mi chiedo se questo è un libro per bambini, cioè bambini grandi, se invece una cosa per adulti o una lettura insieme tra genitori e figli. Io Io penso che sarebbe bello se i ragazzi giovani, anche bambini eventualmente lo leggessero, perché è un bambino che descrive questa cosa per la grandissima parte. Ma non so se ci sono opinioni anche in sala a proposito. Secondo me, un libro di formazione, no? Un bambino parla e ti racconta. Quindi secondo me fa bene a tutti. Bene la lettura tra genitori e figli, bene per gli adulti che leggono queste cose. Perché come è scritto, è stato molto bravo lei, perché ha scritto proprio, sembra proprio il bambino che parla, sì, che racconta. Sì. Quindi in questo lei è stato veramente molto bravo, perché proprio ci porta come se il bambino ce l'hai di fronte e ti racconta, no? E quindi sì, secondo me è interessante che venga letto. Il problema è se viene letto a scuola, mi viene un'idea adesso così, se dovesse essere letto in una scuola dove ci sono bambini adesso, tanti bambini che vengono dall'Africa, come lo sentirebbero loro questa cosa? Questo è il problema. Come lo sentire? Perché loro hanno il racconto dei nonni o dei genitori, anche se sono qui, che sono la seconda generazione o la terza, quello che è, non ha importanza. Però questo mi viene in mente. Come reagirebbero i nostri figli o nipoti, che senz'altro li farebbe tanto bene, e forse stimolerebbe anche la curiosità di conoscere l'altro, quello che è lontano da noi, sia come cultura che tutto, quindi stimola la voglia, la curiosità di conoscere, no? Chi non vive con il cellulare 24 ore su 24, è tutto programmato, e tutti gli sport che bisogna fare, tutte le attività artistiche che bisogna fare, e non c'è più il tempo di giocare o di avere questa esperienza di essere anche responsabili. Ma non di se stessi, di responsabili, la tua responsabilità è anche della collettività. Però ecco, sarebbe proprio interessante vedere invece magari un bambino che viene dal Kenya, che è qui e studia, e legge una testimonianza del genere, probabilmente lo riporta bene a dei ricordi. Questa è l'unica cosa che ho visto effettivamente, perché ho tante amicizie in Kenya, ho visto i bambini che leggono, e sono curiosissimi, perché non conoscono neanche loro questa cosa. Cioè anche per loro è lontano, cioè i bambini che crescono a Nairobi non sanno niente dei camelli, tanto per dire. No, ma questo io dico anche così, cioè il fatto che io ero bambina e andavo in campagna dei miei nonni, che erano contadini, avevano campi e queste cose qua. Quelle esperienze che io ho avuto, le scoperte anche della natura, lui parla dei camelli, parla degli animali che aggrediscono gli altri, quindi quella è una cultura enorme, cioè non aver paura, cioè hai paura ma devi affrontare la paura. Invece noi qui magari i nostri nipoti, i nostri figli, così li educhiamo ad avere, stai attento a questo, stai attento a quello, certo. Ma non ad essere responsabili di dire ok, c'è questo ma lo devi affrontare, no? Se vuoi diventare grande e quindi hai una responsabilità per te stesso ma anche per gli altri. No, molto bello, grazie. Grazie. La invidio un po' per questa esperienza che lei ha fatto, che continuerà a fare, la invidio un po', devo essere sincera. Grazie.